Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. I numeri sono impietosi, ci parlano di un'Italia sempre più in difficoltà, un'Italia in cui non si può o non si vuole spendere, con le famiglie che, costrette ad operare delle scelte e a stilare una lista di priorità, decidono talvolta di rimandare o di rinunciare del tutto anche a spese che potrebbero rivelarsi forse a lungo o medio termine essenziali e indispensabili. Fa molta impressione pensare al fatto che gli italiani spendono meno per riempire il carrello della spesa, l'ho detto ieri l'Istat, e che lo riempiono di meno, diminuendo le quantità del cibo da portare in tavola. Abbiamo affrontato più volte questo tema negli ultimi mesi a Salva Danaio. Colpisce anche il fatto che diminuisca l'attenzione alla qualità del cibo comprato. Istat ieri ci ha detto quanto si sia spostato verso i discount, il baricentro delle spese abituali, anche se non siamo del tutto d'accordo che poi nel discount in realtà ci sia una qualità inferiore per quello che riguarda il cibo che viene venduto. Questo magari è un tema che affronteremo seriamente la prossima settimana a Salva Danaio. Lasciando da parte questo discorso, fa ancora più effetto però sapere che si arriva in molti casi in una famiglia a rinunciare anche alle cure mediche. Una famiglia su tre ormai non porta più i figli dal dentista a causa delle difficoltà economiche legate alla crisi, e questo lo ha detto venerdì scorso il Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria. Sempre secondo i dati Istat di ieri, oltre 7 famiglie su 10, il 70%, negli anni della crisi hanno eliminato le spese per le visite mediche, per analisi cliniche e radiografie. Salva Danaio oggi fa i conti con questi dati che ci amareggiano, ci preoccupano, raccogliendo, se lo vorrete, anche le vostre testimonianze, i racconti delle scelte che vi siete trovati a fare, costretti appunto dalla crisi, e anche le motivazioni che hanno spinto queste scelte. Raccontateci allora le vostre testimonianze all'occhio 800 24 00 24. Raccontateci se nell'ultimo periodo avete deciso di rinunciare alle cure mediche per motivi economici o quali alternative avete trovato. 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Scriveteci anche al nostro indirizzo di posta, salvadanaio@radio24.it. Siamo su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Con noi questa mattina ci saranno Francesca Moccia, coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato, Luca Foresti, amministratore delegato del Centro Medico Sant'Agostino di Milano, ma sta aprendo questa struttura anche in altre città d'Italia, dove si propongono delle prestazioni appunto specialistiche a costi economicamente accessibili. E poi avremo con noi Mauro Rocchetti, vicepresidente vicario dell'ANDI, l'Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani. Prima di tutto questo però c'è da raccontare anche di un'altra Italia, quella che ha in mano l'enorme stock di risparmio privato del nostro paese, uno stock che ammonta a 3.500 miliardi di euro. Un'Italia che sta facendo navigare l'industria del risparmio gestito a vele spiegate, come vi abbiamo raccontato anche la settimana scorsa in diretta dal Salone del Risparmio di Milano. Allora, buongiorno al presidente di Assogestioni, Domenico Siniscalco. Presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Perché l'abbiamo invitato per questa prima parte di Salva Danaio? Perché Assogestioni ha comunicato proprio questa mattina che a marzo la raccolta netta complessiva del sistema fondi è ammontata a 7 miliardi e 300 milioni di euro, terzo mese consecutivo di raccolta positiva, e nei primi tre mesi dell'anno l'industria del risparmio gestito in Italia ha raccolto 19 miliardi di euro. Sono cifre, presidente, se lei ha sentito tutto il mio preambolo, che fanno davvero un po' a cazzotti, no? Con la situazione dell'Italia che invece è in difficoltà. A cosa si deve questo risultato? Ma dopo il suo inizio, che era quasi un bollettino di guerra, no? È difficile poter essere serenamente ottimisti, né avrebbe senso esserlo. Tuttavia il numero che lei ha ricordato, che vuol dire in poche parole i nuovi depositi nell'industria dei fondi e nell'industria dei mandati, ad esempio da parte delle assicurazioni, indica che c'è ovviamente un'Italia che risparmia. Dall'inizio dell'anno 19 miliardi sono poco meno di un punto e mezzo di PIL, quindi dei numeri consistenti. Come si spiega un'Italia che, a parte i numeri che lei ha dato sulla salute, ma in generale un'Italia che fa molto fatica e sempre più fatica con questo afflusso. Beh, sicuramente c'è un problema di distribuzione del reddito. A fronte di un 30% di italiani che fanno molto fatica, ve ne sono altri evidentemente che non sperimentano le medesime difficoltà. Questo accade nell'industria che esporta, avviene in parte nel settore pubblico e così via. E quindi c'è un problema di distribuzione del reddito. D'altro canto c'è molta meno competizione da parte delle banche e degli impieghi tradizionalmente proposti dalle banche, perché c'è molta liquidità nel sistema grazie alle banche centrali, il che vuol dire che l'industria dei fondi può proporre i propri prodotti in un contesto meno tirato, meno competitivo. Diciamo che la banca si cannibalizza un po' meno rispetto a quello che faceva in passato, nel passato recente, non dico che obbligava, ma incentivava la clientela ad acquistare l'obbligazione per fare raccolta e magari cercava di convincere la clientela a disinvestire dal fondo di investimento. Sì, era un problema di concorrenza più che di cannibalizzazione, come lei dice, ma sicuramente non c'è più quell'effetto, perché il sistema finanziario, grazie alle banche centrali, la BCE e da ultimo anche le decisioni del Giappone, è pieno di liquidità e non c'è tensione tra i diversi impieghi. E infine prodotti migliori, perché dopo anni di difficoltà l'industria del risparmio è in grado di produrre dei rapporti. Proprio sulla sua radio, io questa mattina ho sentito un'intervista a una persona dell'Istat che spiegava che la ricerca di risparmi è una ricerca di soluzioni adeguate. In un mondo così difficile è anche necessario affidarsi a chi è in grado di gestire il risparmio. Con sagacia. Ecco. Insomma, 3.500 miliardi di stock, proprio con lei commentavamo questi dati la settimana scorsa al Salone del Risparmio, uno stock che permette ancora probabilmente a questo paese di reggersi in piedi se invece raccontiamo le difficoltà di altro genere, come raccontavamo ad inizio puntata. Presidente, una domanda, mi corre l'obbligo di fargliela, visto che lei in passato ha avuto incarichi di governo di rilievo. Alle 12.30 Enrico Letta sale al Quirinale per ricevere appunto l'incarico da parte del Presidente della Repubblica. Non le chiedo ovviamente un commento su questo, le chiedo, visto che abbiamo un governo che si formerà nel giro di pochi giorni, speriamo, cosa bisogna fare in Italia per far ripartire l'economia? Ma intanto avere un governo è un fatto estremamente positivo dopo più di 50 giorni di vacanza di governo. I mercati vogliono certezze e questo di per sé è un grande vantaggio. Credo che Enrico Letta sia la persona giusta anche per rassicurare i mercati e quindi questo è sicuramente un plus. Il governo deve innanzitutto mirare a far ripartire lo sviluppo, pur ovviamente nel rispetto dei vincoli europei, ma l'avete visto sulla legge finanziaria spagnola dell'altro giorno, sulle decisioni europee, senza sviluppo non ci può essere neanche la stabilità dei conti e questo è in cima all'agenda ed è fondamentale per tutti e per i risparmiatori anche. Poi c'è il tema della tassazione del risparmio. Infatti, su cui nell'ultimo anno abbiamo visto le cose un po' disordinate e io spero che si possa riprendere quel cammino di facilitare non tanto il risparmio di per sé, ma il risparmio di lungo termine e il risparmio che va verso gli investimenti, di questo ha bisogno il Paese. Anche perché ecco, il tema del lungo termine è fondamentale, se ricordiamo il fatto che in Italia ancora non ci si prende cura nella maniera giusta del tema della previdenza integrativa. Magari con lei, Presidente, faremo una bella puntata su questo argomento in un'altra circostanza, se volentieri. Lo ritiene. Grazie per essere stato con noi, a Domenico Siniscalco, buona giornata. Ancora, a presto. E noi torniamo al tema di questa mattina. Come vi anticipavo, dobbiamo parlare di quella Italia che invece è sempre più povera, quella che è emersa ieri dall'indagine Istat che parla di nuclei familiari che continuano ad eliminare il superfluo, ma che iniziano a tagliare anche su beni e servizi di prima necessità, e il taglio sulla spesa medica è quello che più frequentemente viene fatto all'interno dei nuclei familiari. Francesca Moccia, coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato, buongiorno. Benvenuta, buongiorno, bentornata, grazie. Anzi tra di noi. Non è la prima volta che il Tribunale per i diritti del malato denuncia questa situazione, non è da ora che voi vi siete accorti di questa tendenza. Mi pare proprio che nell'ultima trasmissione in cui l'ho invitata commentavamo un'indagine del Censis, no, che raccontava la stessa medesima situazione. Sì, ha una fotografia che purtroppo sta solo che peggiorando. L'ultimo rapporto che abbiamo presentato un po' di mesi fa era intitolato proprio Lo Stato asociale, Servizio Sanitario Nazionale e Cittadini. quindi uno Stato che sta venendo meno, un servizio sanitario che si sta in qualche modo disfacendo, e dal punto di vista dei cittadini è un problema grave, perché aumentano i costi e si riducono i servizi, e questo crea ovviamente una sofferenza in più. Quando parlo di costi non mi riferisco quindi solo alla sanità privata, alla quale purtroppo ci si deve rivolgere perché si aspetta troppo per avere una visita, un esame o anche un intervento nel pubblico, ma anche a un aumento di costi perché sono aumentati i ticket, e questo ricordiamoci che ci sono anche i super ticket che hanno quindi aumentato i costi per le visite, per gli esami diagnostici. Questo rende anche nel pubblico le cure più costose e chiaramente è un problema per chi non arriva a fine mese. Voi avete un monitoraggio più dettagliato rispetto alla tipologia di spesa sanitaria a cui la famiglia italiana tende in questo momento a rinunciare? Sono le prestazioni estremamente specialistiche, sono anche quelle prestazioni che dovrebbero enfatizzare il momento preventivo, no, di tante problematiche appunto di salute che abbiamo nel nostro paese. A che cosa rinunciano esattamente le famiglie? Sicuramente alla prevenzione, in realtà ci rinuncia già il nostro servizio sanitario, che investe poco, ha sempre investito poco e investe sempre meno in questo, ed è un problema perché oltre a non avere prevenzione non abbiamo le risorse per curarci. Questo nei prossimi anni ci porterà purtroppo a una situazione difficile da gestire. E, poca prevenzione, ma poi appunto la prevenzione si fa attraverso le visite specialistiche, attraverso anche una medicina generale che funziona bene, anche che in qualche modo filtri il passaggio al pronto soccorso e l'ingresso negli ospedali, e lì sappiamo che la riduzione dei posti letto, la chiusura delle strutture senza un'alternativa crea dei vuoti, anche questo è un problema. Quindi si intasano i pronto soccorso, e quindi questo purtroppo, piuttosto che andare avanti, va indietro come processo, per quanto l'abbiamo combattuto. E vediamo se ci saranno dei risparmi nei tagli ai posti letto, così come si è previsto di fare, se questi risparmi saranno reinvestiti davvero attraverso le regioni in un'assistenza territoriale che funzioni, che faccia quindi prevenzione, ma che si occupi anche della riabilitazione per gli anziani, malati cronici, cioè che dia quell'assistenza che serve e che servirà sempre di più agli anziani nei prossimi anni. Aggiungo solo una nota di denuncia: mi ha colpito molto il fatto che Emergency in Italia sta aprendo degli ambulatori come se stessi mi ha tolto le parole di bocca mondo. Perché noi abbiamo intervistato Cecilia Strada proprio la settimana scorsa, perché si sta completando in questi giorni una campagna di funding, di raccolta fondi, che è destinata proprio ad implementare queste strutture sul territorio italiano. Noi siamo abituati ad associare l'immagine di Emergency nei paesi devastati dai conflitti, nei paesi dove praticamente le mine antiuomo devastano appunto le persone, e in realtà scopriamo che invece adesso devono incrementare le loro prestazioni nel nostro paese. Mi raccontava Cecilia Strada che stanno assistendo, per esempio in questo momento, che si avvalgono delle loro prestazioni con i loro ambulatori mobili, le persone che fino a 2 anni fa per esempio sostenevano Emergency, adesso invece hanno bisogno di cure mediche, di andarsi a curare i denti presso i poliambulatori di questa associazione. Quindi ecco, questa è la situazione in Italia. Moccia, se vuole completare il suo ragionamento, poi vado anche a Luca Foresti, perché sennò penserà che l'ho invitato qui in studio per scherzo. Assolutamente, insomma, è tutto merito di Emergency, anzi come italiani li ringraziamo per quello, ma è scandaloso d'altra parte che ciò avvenga, quindi ci deve far riflettere. Non siamo un paese del terzo mondo, ma ci dobbiamo chiedere se in qualche modo lo stiamo diventando, se le garanzie si stanno riducendo. Dobbiamo fare qualcosa per riformarla questa sanità, perché certo, continua a essere per noi un punto di riferimento, non dobbiamo assolutamente arretrare. Allora, tra il volontariato di Emergency e magari le prestazioni private del tutto inaccessibili, ci sono anche delle situazioni intermedie, no? Luca Foresti è l'amministratore delegato del Centro Medico Sant'Agostino, noi abbiamo già conosciuto questa struttura in altre puntate di Salvadanaio, ne avevamo parlato di voi. Voi siete partiti con la vostra attività a Milano nel marzo del 2009, adesso state cercando di capire se potrete presidiare anche altri territori in Italia, e questa è una struttura dove si offrono delle prestazioni appunto specialistiche a costi economicamente accessibili. Che cosa vuol dire? Ma molto innanzitutto buongiorno a tutti. Molto concretamente significa che visite specialistiche che nel mercato privato viaggiano tra i 100 e i 150 euro, da noi vengono offerte a 60 euro. Sedute di psicoterapia che sempre nel mercato privato costano 60-70 euro, da noi costano 35 euro. Questo per essere tremendamente concreti. Noi siamo una struttura cosiddetta privata-privata, quindi noi non facciamo parte di quella sanità privata che in realtà prende risorse dal pubblico e siamo nati nel marzo del 2009 e in questi 4 anni abbiamo vissuto per poter coprire bisogni che non erano coperti né dal pubblico né dal privato, in alcuni casi perché sono bisogni che non fanno parte dei cosiddetti livelli essenziali di assistenza, come ad esempio buona parte dell'odontoiatria, in altri casi perché pur facendone parte le modalità con cui vengono erogati non sono, diciamo, piacevoli per gli utenti, o perché le liste di attesa sono molto lunghe, o faccio un esempio concreto, perché il pubblico non è in grado di garantire lo stesso ginecologo, la stessa ginecologa al paziente visita dopo visita. Per una visita così delicata è chiaro che magari una donna vorrebbe avere a che fare sempre con lo stesso professionista. Esatto. Ecco. Esatto. E quindi insomma questa è un po' la vostra filosofia di questa fondo. È un po' la nostra filosofia, quello che è successo da quando abbiamo aperto, che abbiamo avuto un notevole successo che ovviamente è incrementato nel momento in cui è stato aumentato il ticket, per cui la distanza economica per chi deve pagare il ticket tra noi e il sistema sanitario nazionale si è assottigliato. Appunto quello che concretamente facciamo è occuparci di polispecialistica, di terapie, fisioterapia, logopedia e psicoterapia e di odontoiatria. In tutti questi ambiti, in questi anni siamo cresciuti e ultimamente stiamo crescendo ancora più velocemente. Segno del fatto che è vero che le persone vanno meno nel pubblico pagando il ticket e probabilmente vanno anche meno nel privato standard perché non hanno più i soldi per permettersi una visita specialistica da 150 euro, ma trovano in soggetti come noi delle alternative praticabili. Certo, adesso devo andare in pausa, ma poi ci dovrà raccontare nella seconda parte del programma. La metterò a confronto con il vicepresidente dell'Associazione dei Dentisti Italiani, come vi hanno accolto sul territorio appunto i professionisti, i medici, certo, specialisti, quindi i psicologi, i dentisti per l'appunto, i ginecologi a cui avete fatto appunto concorrenza. 800 24 00 24, numero verde per le vostre testimonianze. Raccontateci ancora come, cosa succede a casa vostra, se avete dovuto rinunciare anche a delle cure mediche che sarebbero state in realtà fondamentali ovviamente per voi per stare bene, perché la prevenzione è molto importante, ma magari è chiaro che in momento preventivo, facendo tutti gli scongiuri, per un po' si può anche rimandare, ma non a lungo. Però se c'è una patologia importante, invece è chiaro che qua la cura non si può procrastinare. Eccoci ritrovati in diretta a Salvadanaio. Noi questa mattina parliamo di quelle famiglie italiane che vivono in una condizione di crescente difficoltà e che a causa di questo, a causa della crisi, sono costrette addirittura a rinunciare alle cure mediche. E allora, vi è successo anche questo? Raccontatecelo e noi cercheremo di commentare. Chiaramente non possiamo dare delle soluzioni miracolose per queste circostanze, sicuramente possiamo però commentare con voi qualora questo accadesse all'interno del vostro nucleo familiare. Stavo intanto già leggendo molte testimonianze che ci stanno arrivando, ci sono molti ascoltatori che sono pronti ad intervenire, però devo anche salutare la nostra Anna Rita D'Ambrosio dalla redazione. Anna Rita, ciao, perché controlleremo con attenzione qualora si aprisse una porta. Perché stiamo verificando il nuovo, prevedibilmente, presidente del Consiglio Enrico Letta. È arrivato da poco al Quirinale a colloquio con Giorgio Napolitano, è arrivato da solo, una curiosità, alla guida della sua vettura, ed è adesso a colloquio con Napolitano. Quindi aspettiamo le dichiarazioni che farà prevedibilmente prima il Presidente della Repubblica e subito dopo il Premier incaricato. Benissimo, già una bella iniziativa di spending review individuale che ci piace. Vedremo se poi questo sarà anche un atteggiamento che manterrà la prossima compagine di governo. Ritorniamo al nostro tema e vi leggo già qualche testimonianza. C'era un'ascoltatrice, adesso me la sono persa, che ci raccontava che per esempio era abituata a fare una mammografia di prevenzione tutti gli anni. Adesso, siccome lei è disoccupata e suo marito non lavora, ha deciso appunto quest'anno di non fare questo controllo. Eccola qua, eccomi a testimoniare. Ogni anno ad aprile faccio la mammografia di controllo, quest'anno non me la sento di spendere quei 50 euro minimo di ticket, è preciso che io non lavoro e mio marito si arrangia, e sono tante appunto le testimonianze di questo tenore. Noi perché abbiamo deciso di fare questa puntata? A parte il quadro tracciato ieri dall'Istat, ci aveva ancor più colpito quello che aveva detto la settimana scorsa il collegio dei docenti di odontoiatria durante il congresso nazionale di questa associazione, e aveva raccontato che nel 2012 rispetto al 2011 le visite e le prestazioni odontoiatriche destinate ai più piccoli sono scese del 40%, cioè le famiglie non fanno l'apparecchio ai denti per i bambini, e questa è una scelta appunto piuttosto importante all'interno della famiglia. Mauro Rocchetti, vicepresidente vicario dell'ANDI, l'Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani, buongiorno intanto, ci sente? Buongiorno a lei, grazie. Ci conferma questa tendenza che hanno appunto raccontato i vostri, tra virgolette, colleghi docenti di odontoiatria? Sì, assolutamente, assolutamente confermo la tendenza. Vorrei rimarcare che quel dato riferito dalla dottoressa e collega Polimeni, presidente del collegio, si riferisce alle prestazioni nel pubblico. Il dato riportato nel privato è assolutamente in linea. Noi abbiamo, come ANDI, abbiamo dei dati frutto di uno studio del nostro servizio studi su dati Istat, per il quale in quest'ultimo anno il 40% circa degli italiani mediamente si è rivolto al dentista, quindi il 60% degli italiani in questi ultimi anni non si è rivolto al dentista nel privato, e quindi è un dato assolutamente sconfortante e preoccupante. Certo, la parte del privato viene chiaramente sempre visto, come lei ben sa, come chiaramente il canale più costoso. Se a questo poi ci mettiamo anche una crisi economica che continua a far peggiorare la condizione delle famiglie, è chiaro che... Esatto, Lei giustamente accennava, no, al discorso della mammografia, per cui no, le pazienti evitano di farle. Oggi questa crisi, ahimè, globale, globalizzata, per la quale le famiglie faticano a avere figli mesi e a comprarsi igiene di prima necessità, chiaramente laddove non c'è carta d'urgenza il dentista viene messo in secondo piano. Certo, non solo il dentista, anche il cardiologo. C'è un ascoltatore che ci scrive: sono cardiologo presso un distretto sanitario, tante persone mi dicono che hanno perso il lavoro, non pagano. Vi succede anche questo, vicepresidente Rocchetti, che molte persone chiaramente hanno poi bisogno, perché se c'è una carie che ti devasta la giornata perché ti fa male la bocca, ti fa male i denti, non è che puoi rinunciare per forza a farla quella cura. Certo, ma vi dicono anche: posso pagarti il prossimo mese, fra due mesi? Allora guardi, ovviamente sono due le cose che succedono in studi. Allora, laddove il paziente possa scegliere, allora, se la terapia è differibile e una carta di urgenza, la differiscono. Laddove possono scegliere diverse prestazioni, chiaramente scelgono quella meno onerosa, e spesso chiedono al dentista di poter diluire il pagamento nel tempo, insomma, chiedono questo tipo di situazione. I dentisti generalmente vanno incontro a queste istanze. Insomma, il paziente oggi chiede di pagare rapidamente, certo. Anche per piccole prestazioni. Una volta era, come dire, consuetudine per grandi, sì, insomma, grandi, anche interventi. Se la piccola prestazione dal dentista è sempre una prestazione abbastanza significativa dal punto di vista economico, no? Non beh, è certo, dire, magari una prestazione da 20 euro. La piccola abitazione, parliamo anche di interventi di 100 euro o poco più, 200 euro, il paziente chiede di poter pagare rapidamente, di magari 300 euro chiedono di pagarlo 100 euro. Certo, ma d'altronde se c'è un monoreddito, la situazione di monoreddito, tirar via 300 euro in un mese, no? Luca Foresti, lei che ne pensa? Peraltro anche nel vostro centro, nato appunto come dicevo prima per garantire prestazioni specialistiche a costi accessibili, comunque avete monitorato in questi anni un cambiamento della tipologia di prestazioni che vi vengono richieste, le famiglie, anche voi avete avuto modo di notare appunto questa accresciuta difficoltà? In odontoiatria sicuramente sì. L'odontoiatria, tenete presente che è nel novero delle spese private sanitarie la prima spesa per le famiglie, e non solo, spesso è una spesa improvvisa e di proporzioni importanti. Questo ovviamente produce delle difficoltà sostanziose. Ora, le difficoltà finanziarie possono essere superate con varie forme di finanziamento, quindi il problema è che in questo momento in cui l'economia è quella che è, le persone fanno fatica anche ad accettare l'idea che pagheranno pagheranno a rate successivamente, certo, una protesi. Quindi questo è il tema. Lasciatemi però dire una cosa: l'odontoiatria viene da anni in cui i prezzi erano esorbitanti senza particolari ragioni. Quindi quello che sta succedendo adesso, si stanno un po' calmierando le tariffe, calmierando, e con questo cambia anche l'ecologia stessa degli odontoiatri. Una volta c'erano tutti odontoiati singoli nel proprio studio, oggi l'odontoiata singolo nel proprio studio fa fatica a stare in piedi da un punto di vista economico, e quindi il numero minimo di poltrone con cui stare in piedi aumenta, la organizzazione generale, le economie di scala cambiano, e di conseguenza i prezzi possono calare a parità di qualità. E questa è la ragione per cui, per esempio, nel nostro caso noi non abbiamo visto una flessione, anzi abbiamo visto un aumento di persone che venivano da noi. Questo è un elemento importante di cambiamento, perché finalmente l'odontoiatria comincia a diventare accessibile per più persone rispetto al passato. Intanto c'è un ascoltatore, Roberto, che al 349-238-6666 ha fatto una relazione molto intelligente fra il primo tema che abbiamo affrontato, l'incremento del, come dire, del risparmio gestito, la raccolta che sui fondi di investimento continua a crescere, e il tema appunto della sanità. Roberto ci dice: io vado controcorrente perché anziché investire i soldi in banca ho deciso di spenderne una parte per farmi due denti nuovi. Penso che sia il mio miglior investimento degli ultimi anni. Sono d'accordo. Ecco, benissimo, bravo Roberto. Allora cominciamo a sentire alcuni degli ascoltatori, cominciando con Paolo da Milano, che è un odontotecnico che è in attesa da un po'. Paolo, buongiorno. All'800240024 ci dica, ci racconti. Io volevo intervenire proprio sul calo, dicono i medici, del 40% nel settore dell'ortodonzia. Beh, dovrebbero farsi anche loro un esame di coscienza, perché quando un apparecchio ortodontico loro pagano 100-150 euro e chiedono 3.000-4.000 euro per far andare il paziente a girare una vitina una volta al mese, cioè anche loro a un certo punto dovrebbero dire, cioè adeguarsi. Ma questo vale in tutti i settori, perché io penso che nel settore dei medici sia il settore più esoso al mondo che esista, perché se tu vai a fare, io avevo mia moglie che ha avuto dei problemi al seno, per fare una visita di controllo 300 euro per 10 minuti, capisci che, cioè, penso che anche loro dovrebbero fare un passo indietro. Poi il resto, il dirigente dell'AMDI dirà che loro hanno delle spese, sì, ma queste barzellette le raccontano, le possono raccontare, perché sia quando gentile, loro pagano come una cosa uno e lo vendono a 40, cioè, mi scusi un attimo, io sono dentro e lo posso dire. E lei, insomma, certo, ci dà una testimonianza di prima mano. Ci diceva però Luca Foresti poco fa che in realtà, ecco, questo è forse un mondo così divaricato che esisteva in passato, adesso si stanno un po' più avvicinando i due estremi. Detto questo, probabilmente ancora situazioni di questo tipo esistono, se no Paolo non ce le denuncerebbe, però io Mauro Rocchetti lo devo far replicare naturalmente. Assolutamente, diciamo, ho sentito cose condivisibili e altre un pochino meno, perché poi l'analisi, insomma, deve essere frutto di una, come dire, attenta analisi della casistica. Vorrei uscire dal luogo comune che sono cari dentisti, qui potevo parlarne ore, insomma, e magari difficilmente riusciremo a convergere le varie posizioni. Posso dire sicuramente che, e questo è un dato inconfutabile, anche se sembra così, come dire, generico, che fare una buona odontoiatria ha dei costi elevati, tant'è che il pubblico mediamente la fa odontoiatria, perché costa molto caro fare odontoiatria. Il pubblico rivolge le sue attenzioni, ove nelle capacità positive e economiche, in altri campi sanitari, perché fare odontoiatria costa molto caro. Questo già. Sì, allora per esempio le faccio subito sentire Lea da Bologna, dottor Rocchetti, perché comunque questa signora, che mi pare di capire, anche se sarà sicuramente in ottima salute, ha un po' di anni. Lea, buongiorno intanto, ha fatto un preventivo per la dentiera che le verrebbe a costare quanto? Dunque, io ho fatto un preventivo per una dentiera e mi hanno chiesto 24.900 euro. E poi c'ho il cuore che è un po' ballerino, che è un po' di tempo, e sono andata dal mio medico, mi ha fatto l'elettrocardiogramma, mi ha detto, dice, guardi Lea, devi andare da uno specialista. Mi sono informata, mi hanno chiesto 200 euro per fare questa visita. E allora io non faccio né uno né l'altro, perché ho 800 euro di pensione, ne pago 450 di affitto, quindi lei può pensare come mi trovo io. Lea, noi le esprimiamo tutta la nostra solidarietà perché è assolutamente, come dire, incommentabile questa situazione. Lea avrebbe diritto, alla luce della sua condizione reddituale, di un'assistenza ad un'assistenza di tipo radicalmente diverso, e magari dal suo caso ripartiamo con i nostri commenti dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Buongiorno, sono la mamma senza un euro di 5 figli. Stiamo rinunciando a tutto: visite mediche, dentisti, occhiali, jeans, chi più ne ha più ne metta, ci scrive Elisabetta. Come noi tanti, troppi altri. Voglio però dire che noi ci proviamo. Io ho aperto con due soci un laboratorio di pasticceria senza glutine. Un figlio lavora in un grande centro commerciale di abbigliamento sportivo, gli altri studiano. Abbiamo deciso che andiamo sempre avanti. Elisabetta, naturalmente in bocca al lupo per tutto, però volevo tornare al caso di Lea da Bologna. Foresti, volevo farlo commentare a lei, che tra l'altro credo aprirete tra poco a Bologna anche i vostri centri per appunto prestazioni sanitarie, specialistiche a costi accessibili. Una condizione come questa, come la vogliamo commentare? È assolutamente inaccettabile che ad una persona che guadagna 800 euro al mese, guadagna appunto come pensione, non si possa trovare un canale alternativo per permetterle di farsi una dentiera, naturalmente, e andare avanti dignitosamente nella propria vita. Ma dividiamo in due le cose che dice Lea. Sul cardiologo, la cardiologia fa parte dei livelli essenziali di assistenza, quindi Lea può trovare in Sistema Sanitario Nazionale la possibilità di fare una visita, probabilmente esente ticket data l'età, ma se non è esente ticket ad un prezzo accettabile. Io lì ci metto anche un pochino di azione di responsabilità del medico, che invece di dirle vai a farti una visita specialistica magari potrebbe anche aiutarla, ma qui abbiamo poi tutto il commento sul ruolo e la relazione tra un paziente e il medico di base, che è un altro sono tema. Sono perfettamente d'accordo. Per quanto riguarda invece il caso della protesi, è un caso un po' particolare, perché vedete, in odontoiatria che problema una persona ha, 10 odontoiati tendono a dire la stessa cosa. Quale soluzione a quel problema, 10 odontoiati tendono a dire 10 cose diverse, e ovviamente a prezzi diversi e a qualità diversa. Probabilmente la dentiera che è stata proposta alla signora Lea è una dentiera su impianti fissa, che ha di per sé un costo abbastanza elevato. Ora, 25.000 euro per una dentiera di questo tipo mi sembra veramente tanto. No? Coinvolgiamo Rocchetti dell'Andi? Rocchetti? Sì, stavo fremendo. No, perché vuol dire, la signora Lea ha tutta la nostra simpatia, ci mancherebbe, però avrebbe capito che tipo di abitazione gli sarà proposta. Molto probabilmente il problema è proporre al paziente la riabilitazione giusta per lui, anche dal punto di vista economico. A un paziente che guadagna o percepisce la pensione di quella portata, sicuramente non si può proporre una complessa riabilitazione implanto protesica del tipo, perché si trovano sul mercato libero professionale delle ottime protesi mobili, parliamo 1000 euro, parliamo 1500 euro, parliamo 1400 euro, quindi questo è un range di una protesi mobile totale. È chiaro, se il collega non ha l'attenzione nel proporre anche il piano corretto di trattamento per i pazienti, si arriva a questi eccessi che noi come Andi condanniamo, perché noi sempre diciamo, e questo per Andi stava sempre, vuol dire, motivo anche di orgoglio, va oggi praticata e proposta alla pazientela un'autorità sostenibile anche economicamente, infatti, non solo grandi abitazioni. Ecco, questo è un po' il messaggio importante. No, no, ma lei ha fatto bene a darlo, ma io ce ne metto anche un altro, che adesso, siccome stanno arrivando decine di messaggi, me li perdo continuamente. C'era anche chi sollevava la questione della professionalità. È chiaro che un medico ti garantisce un certo tipo di assistenza, non siamo tutti medici, e su queste prestazioni è chiaro che la negoziazione, come si fa in banca o in un altro negozio, è anche un altro aspetto inaccettabile. Detto questo, appunto, che ribadisco, ad una signora di 70 anni che ha 800 euro di entrate al mese, di cui 400 in un affitto, magari che il medico di base gli dica vai a farti la prestazione specialistica, mi sembra un po' troppo. Chi sentiamo adesso? No, volevo farmi raccontare, tra l'altro non l'abbiamo salutata, è ancora con noi Francesca Moccia del Tribunale per i diritti del malato, se vuole un po' dire la sua su tutte le questioni che abbiamo affrontato fino a questo momento. Comunque, come dire, i punti nevralgici della questione li abbiamo scoperti, non tanto il tema della cura dei denti è quella più importante, mi pare di capire, ma non c'è solo quella. c'è solo quella. La cura dei denti è un nervo scoperto da tanto, è una, purtroppo non è un LEA come è stato detto, quindi il servizio pubblico non lo riconosce se non in piccole situazioni di nicchia, per cui di fatto noi non ce l'abbiamo. Questo è un problema da sempre, solo esplosa una situazione in tempi di crisi, e in realtà le soluzioni andavano trovate già molti anni fa, perché già prima c'erano persone che non erano in grado di curarsi, perché non avevano i soldi per poterlo fare. Quindi tutto sommato ben venga una situazione in cui c'è una maggiore concorrenza, e speriamo che, come si è detto, i prezzi caleranno, come pare che stia avvenendo, ma attenzione alla qualità. Ecco, altro aspetto che tra l'altro sollevano molti ascoltatori, però io credo che siamo anche capaci di come dire, fare delle distinzioni, no? Volevo sentire Mariana dalla provincia di Padova, che è incuriosita sul tema degli ambulatori a prezzi controllati, traversi di foresti, li chiama così. Mariana, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. E senti, esattamente se lei sì, ha detto esattamente quello che volevo sapere, e avevo aggiunto alla domanda che avevo fatto al vostro collaboratore, alla centralinista che mi ha richiamato, se ci sono dei requisiti per poterne usufruire di questi centri, diciamo, a prezzi controllati. Certo, ma non mi risulta proprio, Luca Foresti, il centro medico Sant'Agostino fa delle selezioni all'ingresso? Assolutamente, assolutamente no. Noi riceviamo e curiamo tutti quelli che si presentano alla nostra porta, non c'è nessun criterio di reddito o quant'altro. Siamo nati esattamente per questo. Noi non ci rivolgiamo semplicemente alla parte più in difficoltà della società, noi ci rivolgiamo a tutti. Certamente vengono da noi soprattutto quelle persone che vogliono un'alta qualità unita a un prezzo accettabile. Però la risposta è molto chiara, no. Tra l'altro voi, ecco, siete a Milano, aprirete probabilmente, mi pare di ricordare, a Bologna, poi a Roma. Qual è, come dire, la condizione di accoglienza che avete trovato da parte dei professionisti sul territorio rispetto a questo vostro nuovo modello? E soprattutto, visto che abbiamo tante problematiche al Sud Italia, ci sono dei modelli simili anche appunto nel meridione, dei quali le famiglie che lì soprattutto sono in grossa difficoltà potrebbero fruire? Allora, la prima domanda, noi non abbiamo avuto particolari problemi in termini di accoglienza da parte e della classe medica e di altri anche soggetti. Anche perché voi vi avvalete di medici. Noi ci avvaliamo di medici, cioè, certamente nel 2009, quando abbiamo aperto, un po' di scetticismo in merito alla domanda che tutti si pongono: ma come fate a erogare buona qualità a prezzi contenuti? L'abbiamo incontrato. Poi che cosa è successo? Come fate, tra l'altro? Ma è molto semplice, gli stessi medici che vengono da noi la mattina possono lavorare in un ospedale privato convenzionato, fare esattamente la stessa visita e percepire 10 euro per una visita. Quindi il fatto che debba costare 100 euro una visita è una follia italiana che abbiamo accettato per tanti anni, ma è ora di finirla. I nostri prezzi stanno più o meno a metà, 60 euro è un prezzo accettabile, permette di avere buona qualità, permette di avere fantastici medici che vengono lì e trovano delle condizioni per operare ottime. E in più, e che possono, ci raggiungo, stabilire una relazione stabile appunto. Certamente, con la clientela. Certamente, poi lasciatemi aggiungere una cosa molto importante. Quando parliamo di qualità nel mondo della medicina privata, la domanda è: chi è che la controlla questa qualità? Perché un medico che sta da solo nel proprio ambulatorio fa quello che vuole. Quindi questo è un punto fondamentale che dobbiamo cominciare a chiederci. Io da privato chiedo al pubblico di controllarmi, di verificare che quello che erogo sia qualcosa qualitativamente a buon livello. Questo è un punto fondamentale, a mio parere. L'ultima osservazione da Giorgio da Ferrara, rapidissimo Giorgio, perché siamo in chiusura, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ascolti, volevo solo portare così alla ribalta che chi è portatore, come nel mio caso, di defibrillatore dovuto in seguito a arresto cardiaco, fino a due anni fa non pagava i controlli dove guardano se la... Da un anno e mezzo a questa parte paghiamo tutti, anche pacemaker compresi, perché ci sono dimenticati di inserire i controlli pacemaker e defibrillatori nell'elenco delle patologie in esenzione. Grazie Giorgio. Francesca Moccia, Tribunale per i diritti del malato, conosceva questa situazione? Ma sì, in generale sì, ma questa cosa mi fa capire che è un problema di cui bisogna occuparsi anche con una certa urgenza. Benissimo. In fondo poi i LEA non sono neanche stati ancora aggiornati. Ecco qua, le abbiamo fatto allora questa denuncia che dovrete raccogliere in diretta. Grazie a Francesca Moccia del Tribunale per i diritti del malato, Luca Foresti, amministratore delegato del Centro Medico Sant'Agostino, e Mauro Rocchetti dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiana. Ancora niente, Anna Rita D'Ambrosio, che risentiamo tra poco nel GR. Ancora niente, dal nel GR nessuna notizia. Sì. Grazie, noi ci risentiamo domani, a tutti buona giornata. Salva Danaio.